Io ringrazio Davide per averci ospitato qui questa sera. Tra l'altro è sempre una sorpresa quando vengo in Trentino, perché insomma, cioè, c'è sempre una modalità di fare le cose che è una modalità assolutamente di qualità. Ne parlavamo prima arrivando su, solo entrare in un paese come questo, come tenuto, com'è accogliente così, lascia sorpreso, insomma, noi che veniamo tra virgolette dal sud ci accorgiamo dall'Emilia, però ci accorgiamo di questa grande qualità. E il fatto anche che stasera, di solito io lavoro in un'associazione di commercianti, no? Per cui mi capita di fare incontri alla sera, che di solito troviamo in 4-5, 4 relatori più il presidente di zona, no? Quindi trovare anche una platea dei giovani interessati, dei giovani comunque che sono curiosi e che credono che la cultura sia uno degli elementi di motore di sviluppo anche del luogo dove le persone vivono, è molto interessante. In questo periodo, ad esempio, noi stiamo facendo varie attività con la Garanzia Giovani, non so se lo conoscete il programma, so che è attivo anche qui in Trentino. Garanzia Giovani, poi vabbè, vedremo anche alcuni progetti che stiamo facendo con Garanzia Giovani, è un programma volto all'inserimento lavorativo dei giovani fino a 29 anni di età. All'interno dei vari percorsi, almeno da noi, c'è anche la possibilità di fare tutte quelle azioni legate all'imprenditorialità, che è poi una cosa che soprattutto per la mia professione interessa, perché comunque fare impresa è il, come dire, l'aiutare a fare impresa è lo scopo principale e quotidiano del lavoro che io almeno svolgo. Però come vi dicevo, anche in Garanzia Giovani, quando facciamo, abbiamo provato con gli esperienza, abbiamo provato con tutto per coinvolgere comunque i vostri coetanei, non è così, insomma, per cui mi ha sorpreso. Poi Davide mi ha raccontato che fate parte di una rete di associazioni, 18 associazioni, giusto? Sì, qualcosa del genere. Che vi siete messi insieme, che state organizzando anche delle attività che coinvolgono migliaia di persone, 4-5 mila persone, dico, che cosa ci facciamo noi qua a parlare? Ecco, insomma. Se una cosa curiosa che a mettere insieme questa serie di incontri è che ho avuto a che fare con vari esperti come voi, e quando ho raccontato la realtà di Sinergie, ma cosa ci vengo a fare? Io vorrei ascoltare. Non so, Walter, chiedo a te, in quanto figura istituzionale della situazione, se puoi raccontare a loro brevemente cosa può essere, cosa è Sinergie, cosa è stata Sinergie, insomma, sì, questi anni. Sinergie la Garina è stata questa esperienza, insomma, che è nata dall'esigenza, prima di tutto, dei gruppi giovanili e culturali, insomma, di darsi anche un minimo di organizzazione e sul territorio, non sovrapporre le iniziative. Inizialmente è stata questa un po' l'esigenza che ci ha spinto ad incontrarci, però dopo l'incontro, come ben sappiamo tutti, è sempre anche fonte di nuove cose, di nuove energie che si mettono insieme. Ci siamo trovati, ci siamo piaciuti anche come tipo di mentalità, abbiamo visto che eravamo più o meno tutti sulla stessa linea d'onda. Perciò è nata questa idea, appunto, di collaborare attivamente, sia appunto conoscendosi per scambiare materiale, per ottimizzare le risorse che anche esistono, sia umane che materiali, perché è inutile nascondersi anche dietro facili discorsi, ma insomma un aiuto serve sempre per organizzare degli eventi, insomma, che è quello di cui stiamo parlando stasera. E poi con Davide, insomma, che è qua presente, avevamo 400 euro da parte da un evento che era andato abbastanza bene, diciamo, e è stato lo stimolo per dire vabbè, investiamo questa mole di soldi che abbiamo da parte, insomma, ma soprattutto con l'energia delle persone abbiamo dimostrato che siamo riusciti, insomma, a creare un evento che è un po' il sunto delle attività, delle voglie, delle idee, dei sogni, un po' di tutte queste associazioni. È il quinto anno che lo facciamo, perciò si va avanti tra alti e bassi, tra difficoltà di rapporti istituzionali e difficoltà, insomma, a portare avanti anche discorsi con tante persone, perché le discussioni ci sono, però questo, insomma, quello che ci è rimasto è una rete informale, che non ha bisogno di appoggi, di grandi appoggi di finanziamenti, di grandi appoggi istituzionali, che è una forza da un lato e un limite dall'altro, insomma. Perciò noi, questo penso, un po' di persone che sono qua hanno anche partecipato a questa realtà, magari altre no, insomma, sono qui per ascoltare queste esperienze. E ecco, questa chiacchierata con voi ci farà sicuramente comodo per capirci e capire meglio qualcosa. Io qui magari sono più pragmatico, te l'ho detto anche per telefono, insomma, sinergie vuol dire nessun contributo pubblico, l'utilizzo di spazi pubblici gratis, nessun comunicato stampa, quindi i giornali non sanno nulla di quello che sta succedendo, utilizzo dei social network e una rete di captazione di strutture mobili che dà la possibilità di occupare uno spazio in maniera, diciamo, gratuita, con gratuite tutte le attrezzature, compresi per fino adesso, perché adesso c'è un momento di riflessione, su anche tutta la parte artistica che è venuta gratis fino adesso, compresi senza fee, senza gettoni, compresi i service, che stiamo parlando di 3-4 palchi gratis che vengono allestiti. Ospitalità. Sì. Quindi gli ambiti nei quali lavorate, per capire, gli ambiti culturali? Dalla musica dal vivo a progetti culturali per da 0 a 99 anni. La realtà è molto eterogenea, perciò c'è l'associazione che si occupa anche di divulgazione letteraria, come può essere appunto la Grottesca, magari, come chi ha un sound system, insomma, lo presenta. E poi le realtà, insomma, culturali anche giovanili sono per loro natura abbastanza fluttuanti, insomma, dipende dall'energia di chi partecipa a quello che vogliete fare. L'idea è che una volta che presentate voi le vostre attività è di riuscire stasera, come dire, ad avere delle dritte su quello che potrebbe essere il futuro di Sinergie, anche nell'ottica di un progetto europeo. Beh, iniziamo, vai, qua hai buttato giù... Ho buttato tutta la pasta. tante cose. E a breve, ad esempio, ci sarà sicuramente in questa zona l'Italia-Austria, che potrebbe essere un argomento, diciamo, tra i progetti di cooperazione, anche quello più, tra virgolette, semplice, nel senso che l'autorità di gestione mi pare sia Bolzano, per cui si può anche costruendo un rapporto con chi ha poi la gestione di queste quindi vabbè, poi magari nelle slide non ho parlato delle varie programmazioni, di dove si possono trovare le risorse destinate alla cultura, alla mobilità dei giovani e così via. Magari poi facciamo anche un minutino su questa, su questa cosa qui. Perché, diciamo, vabbè, io sono il direttore del CESCOT Veneto, che è l'ente di formazione della Confesercenti. Ente di formazione, una rete nazionale. Io sono responsabile per il Veneto. In primis noi ci occupiamo di formazione per i commercianti, per gli albergatori e così via. In realtà poi il tema culturale si innesta molto in come dire, anche strategie che l'associazione, almeno nella nostra regione, sta portando avanti, che sono legate alla città, riuso degli spazi vuoti, il recupero di aree in degrado e così via. Quindi, cioè, pur occupandoci di dei commercianti, no? Quindi magari anche con una formazione, come dire, abbastanza specifica, abbastanza terra a terra alle volte, in realtà nei progetti andiamo a intersecare anche questi argomenti. Poi personalmente ho scritto su un ragioniere, per cui di cultura proprio, però c'è l'architetto Bianconi che compensa questa mia mancanza, e con altri due amici, tra l'altro, essendo appassionato un po' di arte contemporanea, abbiamo questo collettivo di collezionisti, che è una cosa informale anche sta qua, dove tra una mangiata e un bicchiere di vino sono nate anche le prime idee, che poi sono diventate anche progetti, sempre su stimolo di Federica, che è come dire, sia all'interno delle attività di Cescot che per Frase è l'anima propulsore di queste idee. Poi vabbè, ve lo dirà lei, lei è quella che ha inventato la notte per del Roveretto, insomma, per cui conosce anche abbastanza bene. Abbiamo lavorato insieme, sì, vai. E come vi dicevo, no, la domanda è: che cosa ha a che fare l'ente di formazione di Confesercenti con progetti culturali di arte contemporanea e così via? In realtà, no, io dico sempre, tutti si riempiono la bocca di no, la cultura, il patrimonio, il nostro patrimonio è un patrimonio che serve per la ripresa economica, cioè l'abbiamo sentito 100 volte, poi non c'è nessuno che fa niente. Qualcuno comunque in qualche modo, cioè, cerca di dare il proprio contributo. Non cambieremo il mondo, però magari iniziando a lavorare sulle questioni legate all'occupazione, al lavoro, al mercato, queste cose qui, forse qualche piccolo contributo possiamo dare. Io ho portato, adesso l'ho messo, non si legge bene, è uscito un paio di giorni fa una dichiarazione del sindaco di Londra che è legata a tutto il problema che c'è lì a Londra, sia di abbandono per via dei prezzi, dei costi delle case, che disagrado di alcune parti della città. Lui dice: attraverso progetti legati agli spazi creativi noi vogliamo, ma bisogna rilanciare, però in qualche modo noi vogliamo migliorare alcune aree della città di Londra. Capite che no, c'è un'emergenza. C'è un'emergenza, però c'è chi anche agisce, ci è capitato di fare delle visite di studio, abbiamo visto dove sono innestati questi meccanismi, in realtà anche tutto l'indotto, quello che dicevo prima, migliora. Cioè, ci sono, questo è proprio il classico caso, gli artisti, no, sono quelli squattrinati, si inseriscono, ad esempio, se anni fa erano a Shoreditch, no? Hanno cominciato ad andare tutti in quel quartiere lì, hanno cominciato a nascere situazioni no profit, hanno cominciato a spostarsi le gallerie, alzati i prezzi, si sono spostati gli artisti più fuori, sono andati a Peckham, adesso è il periodo di Peckham. A Peckham sta succedendo la stessa cosa, sono spostati gli artisti, sono spostati le gallerie, i fondi di investimento vanno dove ci sono gli artisti e la città comunque migliora in qualche modo, migliora e peggiora in realtà, perché poi vuol dire che la popolazione meno ambiente è costretta a spostarsi. Tutto questo per dire che questo è il meccanismo che interessa a noi, cioè non è vero che con la cultura non si mangia. Investire nella cultura, investire nella creatività, meglio ancora, investire nella creatività porta sicuramente a un vantaggio per i giovani che trovano occupazione, che attraverso quella professione o le professioni che si inventano hanno da vivere, perché poi, cioè, uno può avere un ideale, ma alla fine della fiera, no, alla sera in qualche modo deve mangiare. Quindi quell'attività che fa o è legata al tempo libero, quindi non è più una professione, oppure deve in qualche modo generare un indotto, un reddito. E questo è quello che noi abbiamo cercato di innestare con i progetti che adesso vi andiamo a illustrare. Qui ho rubato una vignetta da Aurina Paperina, sta seguendo per noi una parte dell'immagine della comunicazione che abbiamo su Garanzia Giovani, per i corsi di Garanzia Giovani. Questa è la vignetta di Brave Artist, che è un progetto, ne parleremo dopo, che è partito da una settimana e io ho sostituito Brave Artist, e per fare impresa culturale bisogna essere impavidi in qualche modo, perché purtroppo non siamo Londra, però come vi dicevo, chi parte adesso deve avere anche coraggio, perché è pioniere rispetto a una crescita, un cambiamento anche di mentalità, un cambiamento culturale nostro. Quello che ho scritto subito sotto, ma soprattutto preparati. Per cui i progetti che noi abbiamo fatto sono innanzitutto dei progetti che sono collegati al tema della formazione, per questo informazione. Da un lato una formazione molto pratica, dall'altro lato la possibilità poi anche nel fare quotidiano di andare a sperimentare quelle che saranno poi le cose che le persone andranno a fare ogni giorno. I risultati li avete visti prima, no? Sono tangibili. Sì, sono alcuni esiti, insomma. No, per cui abbiamo visto che, come dire, c'è un'alta mortalità, no? Anche di chi si apre la partita IVA, di chi si apre un'associazione e così via, perché magari esce dall'accademia, esce dallo IUAV di turno, esce dall'istituto d'arte e così via, ha tecnicamente, magari è bravissimo, tecnicamente un curatore dell'ira di Dio, però la formazione, che l'istruzione che noi riceviamo magari non affronta alcuni temi come promozione, sviluppo, saper fare un portfolio, saper fare la parte, la parte fiscale, saperti tutelare, saper spedire un'opera, cioè per dire tutta la parte, diciamo, logistica, gestionale, amministrativa, che non devi sapere, comunque devi sapere a chi rivolgerti e comunque come tutelarti. Cioè se ti richiudi non riesci comunque, o se non riesci ad entrare in un sistema, in uno dei tanti sistemi appunto che poi seguono queste circostanze, fai fatica a svilupparti, ecco. Adesso scorro velocemente i progetti. Il primo che abbiamo fatto, che richiama quello che vi ho accennato prima, Brave Art, questo è non dalla parte degli artisti, perché quello è giunto quasi a conclusione dei due o tre progetti che abbiamo fatto questo prima. Questo è stato il primo, il test zero, quello che è famoso, che è nato in una bicchierata di frase e era rivolto a 6 ragazzi, perché erano tutti anche questi inferiori, meno di 30 anni comunque, e avevo un breve periodo di formazione, un project work che ha portato, non ce l'abbiamo qui il catalogo, a realizzare una mostra all'interno di Arte Padova su tutto il tema dell'Est Europa. Tra l'altro partner di questo progetto c'era l'Osservatorio Balcani-Caucaso. Mi pare che una delle ragazze abbia fatto il tirocinio al Muse su questo progetto. Sì, è rimasta anche là. È rimasta anche lì. Una ragazza ha fatto un tirocinio in Olanda ed è rimasta a lavorare in Olanda. Un'altra ragazza è stata assunta da Artribium, perché uno dei docenti... Sì, perché è mobilità transnazionale, quindi facevi un periodo formativo e dopo avevi un tirocinio, quindi avevi un periodo pagato che poteva essere o trasregionale, quindi in un'altra regione e non in Veneto, oppure una regione d'Europa. Questi progetti prevedono all'inizio gli accoppiamenti, diciamo. Avevamo dei contatti a Londra, in Olanda, così siamo riusciti a fare gli accoppiamenti e queste persone sono riuscite a fare un tirocinio là e alcune sono rimaste. Insomma, queste sono le grandi occasioni. Sì, un altro ragazzo è andato in Bulgaria a lavorare con un artista, non so se qualcuno conosce un po' gli artisti dell'estero, comunque era una mostra anche. Questi comunque sono tutti corsi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo, quindi si parte già con un gruzzoletto. E qui ci ritorneremo dopo su questa esatto. Nel senso, non nascono... Le persone hanno una borsa di studio, per cui chi partecipa sono praticamente dei rimborsi spese, poi con i tempi di pagamento che abbiamo noi in Veneto devono avere anche molta pazienza, insomma. Però... In realtà però all'estero gli veniva tutto anticipato, per cui le persone, la regione ci riconosceva, ci riconosce un tot a forfè al mese che viene utilizzato per pagare il viaggio, per pagare l'alloggio e se rimangono dei soldi anche per avere un po' di vitto, e per cui comunque hanno vitto alloggio praticamente pagato, più hanno anche, dipende, in Veneto, in questo caso in Veneto dipende dal reddito, se hanno l'ISE sotto i 20.000 euro, nel caso del Fondo Sociale prendono 6 euro all'ora, che comunque non è uno stipendio, ma non è neanche, insomma, magari sono tirocini da 400-500 ore, cominciano ad essere 2-3 euro, e che sono, non cambiano la vita, però possono essere gli elementi che accendono la miccia. Okay? Perché la questione è soprattutto che questi ragazzi, tipo, guarda, disoccupazione femminile, magari in età non giovane, ti arrivano queste ragazze quando facciamo i colloqui per appunto le selezioni, le candidature, completamente demotivate, completamente scoraggiate. Mi ricordo la ragazza che adesso ha aperto l'associazione Street Art, è andata da loro ringraziando, ha detto: guardate, io non riuscivo neanche a lavorare in gelateria, cioè proprio non avevo più voglia di fare assolutamente niente. Sono andata a Milano, ho iniziato a fare la Street Art e ho trovato la mia vita. E adesso ha inaugurato 2 bar, ha fatto, cioè è cambiata la sua vita, cioè nel senso ha trovato quello che l'ha portata a ritrovarsi, insomma, un po' a trovare coraggio, questo è molto importante, insomma. Poi c'è chi lo trova, chi invece no, però Il corso ci prova, insomma, essendo anche molto informale, ci prova. Ecco, questo invece era un progetto più, come dire, più corposo, perché era all'interno di una direttiva che si chiamava Imprendiamo, quindi era strettamente legato all'interesse, all'avvio di un'impresa possibilmente creativa. Progetto sostanzioso, perché tra la parte formativa, la parte consulenziale, i tirocini e per chi ha avviato l'impresa, tutta la parte di avvio di impresa è durato un anno, perché sono state 200 ore di formazione, una visita di studio una settimana a Londra, sempre gestito dal fondo europeo, sempre con il fondo sociale, con il fondo europeo. Sociale europeo. Ci puoi dire le cifre per un attimo ragionarci? Le cifre di questo? Questo è un progetto. Allora, da noi hanno fatto una cosa, non so se c'è qui in Trentino, non ho guardato. Da noi hanno fatto una cosa interessante. Praticamente hanno, adesso vi do dei, interrompetemi se sono troppo tecnico. Fondo sociale, il fondo che sostiene l'occupazione, la formazione continua e così via. Fondo europeo di sviluppo regionale è il fondo che invece sostiene gli investimenti delle imprese e anche delle pubbliche amministrazioni. Cioè, quando vedete il simbolino dell'Unione Europea con sottoscritto FESR su una strada, vuol dire che sono stati utilizzati i soldi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. In Veneto hanno fatto questa cosa qua. Hanno messo assieme in alcuni bandi due fondi, per cui praticamente, fatto 100 il valore del progetto, 60 erano destinati alla formazione, alla mobilità, ai tirocini, alle borse di studio e così via, e 40 potevano essere destinati come fondi per tutti per la vita d'impresa. Allora, noi qua eravamo partiti, ovviamente quando si parte sperando che tutti avviino l'attività d'impresa. In realtà arrivano tante idee strampalate, poi no, il percorso serve anche a sgrezzare e evitare che le persone magari si indebitino con idee che non funzionano. Quindi noi eravamo partiti, il progetto valeva circa 300.000 euro, di cui 120.000 euro non erano stati messi destinati a fondo perduto. Questo quindi, solo per la formazione? No, 180 per la formazione, tirocini, e 120 per far partire l'idea. Praticamente loro davano 5.000 euro per tutte le spese d'avvio al 100%. Il commercialista, il notaio, se si faceva una società, il sito web, se vi fa minimo del minimo, insomma. No, e le brochure, sta roba qua, insomma, tutta la parte di startup al 100%. Il rimanente era al 70% sugli investimenti. Quindi, diciamo, una persona poteva arrivare ad avere tra i 15 e i 20 mila euro, 5 mila euro al 100%, 10 mila euro al 70%. All'interno di quei 10.000 euro, che sono magari c'erano i primi mesi d'affitto dello studio piuttosto che del capannone, se uno. Questo è avvenuto attraverso l'organizzazione di CESCO. Questi sono tutti progetti che, perché per presentare questi con il fondo sociale, da noi bisogna essere accreditati un po' in tutta Italia, esatto. C'è il sistema dell'accreditamento. Quindi, in Trentino non so, guarda se sai qualcosa, c'è un ufficio provinciale che gestisce i fondi europei. Però da lì in poi non so se la Camera di Commercio... Che forma deve avere una struttura anche... Per essere accreditati devi avere l'ISO 9000, devi essere... Cioè comunque una struttura molto stabile sul territorio, che potrebbe essere la Camera di Commercio. Se oppure... lo fa, ci sarà niente di formazione, non so, cioè... ad esempio quella di Confesercenti, so che si chiama Forint. Formazione lavoro. Formazione lavoro, poi. C'è Forimp, che è quella, no, l'equivalente del CESCOT, perché qui hanno costituito il CESCOT, ma avevano anche quest'altra. C'è l'Agriforum qua. Sì, ci sono. Bisogna vedere le sigle, l'ENAIP di turno. Questo va sul sito della provincia, uno guarda enti accreditati, sì, trova le lingue. Perché l'idea stasera è anche di prendere. Ho un post laurea, scusami Davide. E a un post laurea che praticamente era ok, Fondo Sociale Europeo e Provincia di Trento, e ente di formazione FIDIA, un loro sono di Milano, però hanno anche una sede qua, e era formazione, non c'era l'avviamento, insomma, di impresa, però era una formazione. forma simile. Sì, ecco, il Veneto ha questa cosa, non so in altre regioni in particolare, che la cosa interessante, perché ci sono anche dei percorsi da bioimpresa, però se tu magari mi dai anche quel piccolo litro di benzina, no. La cosa interessante è che hanno messo assieme i due fondi, hanno fatto, si chiama multifondo, queste azioni sono fatte con multifondo, per cui riescono a dare anche i soldi per lo startup, addirittura per chi è già in attività danno le risorse anche alle aziende che sono, magari fanno investimenti in tecnologia, queste cose qui un po' particolari, magari hanno un progetto complessivo, cui dicono mi compro il software nuovo di produzione, faccio la formazione ai dipendenti per la produzione e in più gli rimborsano anche il software. È un'integrazione interessante, e, però sicuramente qualcosa di simile c'è anche qui. L'ideale sarebbe per voi trovare un ente fidato con il quale costruire i progetti, non subirli. E nel senso che uno, ad esempio, so che qui va molto il catalogo, no? Ci sono i voucher, uno richiede i voucher, ci sono i cataloghi, si iscrive al catalogo, lo fa da utente. Però nel caso vostro, che siete già strutturati come rete e così via, converrebbe trovare un ente che magari abbia degli scopi, degli obiettivi simili ai vostri e dire ma perché non proviamo a costruire un qualcosa in questo ambito? Quindi non serve che vi accreditiate voi, perché cioè, è un posto l'accreditamento vuol dire avere struttura vuol dire avere lavorato alla stesura e loro che magari hanno poche idee mettono, cioè hanno già mettono l'accreditamento. Sì, diciamo che ci sono i due soggetti, quello che ha idee e quello che muove. Esatto. La burocrazia. Esatto. Lei è quella delle idee, io sono ragioniere. Che guarda che sono il ragioniere anch'io. Oh. E il ragioniere sostiene il mondo. penso anch'io, altrimenti. Così forse il ragioniere. Esatto. Fatto che mettono ordine alle cose. Sì. Sì, è una forma mentis che aiuta. Molto sicuro, poi ho fatto statistica dopo, quindi sono un marito. No, dissocio subito. E questo appunto progetto prevedeva una fase di formazione, abbiamo fatto questa visita studio dove siamo andati a vedere degli ambiti creativi. Allora, anche qui quello che abbiamo cercato non è l'hub di turno o il contesto con l'incubatore di turno dove ci sono, adesso tutti parlano di startup, in realtà mio papà negli anni 60 ha aperto un bar, ha fatto una startup anche lui, insomma, poi ha aperto un negozio, ha fatto un'altra startup. E quello che interessa a noi è capire invece gli ambiti cross settoriali nel vero senso della parola. Cioè siamo andati a vedere, c'è questo coso che si chiama la print house. La print house ha dentro, ha incubato all'inizio una dei designer che adesso è un'azienda che gli sta di fronte in modo stabile, che ha un centinaio di dipendenti. Però giù hanno uno che fa le birre dentro dei container, hanno la mensa interna che è gestita da un'azienda che hanno incubato loro, sopra nella terrazza hanno fatto classico, no? Con l'erba finta, sto locale un po' fighetto d'estate, hanno un'altra azienda, poi hanno le classiche aziende di informatica, hanno un teatro, hanno degli artisti con gli studi, cioè noi quando pensiamo all'incubatore, all'hub, abbiamo 20 scrivanie, 20 sfumature di informatici. Lì si autoalimenta. No. Sì, sono passato l'altro giorno a The Hub Trento e mi è dato proprio quell'idea. Cioè, 10 menti che stanno ragionando su 10 cose diverse. Si sono ampliati, anche so che hanno chiuso la Hanno abbandonato Rovereto e hanno ampliato Trento. A me piacerebbe, Marco, che racconti quali sono le qualità per avviare quella che nessuno vuole chiamare startup, perché ormai il termine è andato in scadenza, ma quali sono le qualità per avviare un'impresa culturale, secondo te? Beh, allora, vedendo anche le esperienze che ci sono qui, avere delle idee buone, ma delle idee semplici. Trovarsi un ragionamento. A me... Tutto, e su quello non posso che andare. No, sicuramente ci vogliono non idee semplici, idee realizzabili, perché in questo corso non abbiamo visto di tutto. C'era quella che voleva fare un centro che costava 3 milioni di euro. Sono delle cose, però 2 o 3 molto infilati. Il ragazzo aveva un'idea un po' di design con CAD/CAM, macchine anche particolari, una tornitrice particolare. Adesso ha creato una linea di design, si chiama Linea di Terra, fa oggetti particolari e fa soprattutto custodi oggetti particolari per bijou femminili o bigiotteria. Quali sono le qualità secondo te di questo, di quel personaggio lì? Allora, innanzitutto che pensava alla grande. Io quando è arrivato ho detto non ce la farà mai. Cazzo, lui pensava sempre alla grande, ambizioso. Sì, perché io devo fare la fiera di Francoforte, il prossimo anno devo fare... Cioè, sai, viaggiava 1000 volte sopra di però sé. Però alla grande inteso non teorico, alla grande no, concreto. Concreto, sviluppava tutti i suoi pezzi, si è fatto tutti i suoi brevetti, però pensava molto in grande ed era l'unico che pensava. Gli altri erano disposti a ridimensionare e rivedere le loro idee, lui non ha mai cambiato idea. Sai quando uno parte con un'idea, con un nome, cioè lui voleva fare quello, altri sono passati dal bed and breakfast ai viaggi turistici, a... lui era tenace. Era uno molto convinto, aveva una competenza tecnica pazzesca perché con le mani e con le macchine sapeva fare qualunque cosa. È riuscito, proprio perché ci credeva, a uscire anche, essendo che era timidissimo Carmine, a uscire e andare comunque a chiedere l'appoggio. Esatto. In alto. L'appoggio a tutte le aziende dei dintorni che facevano design, luce, comunque in Veneto ce ne sono tante, ne ha trovate 3. Che gli hanno detto guarda, intanto che apri Asa ti diamo per 2 pomeriggi alla settimana uno spazio con la macchina per fare i tuoi modelli. Ha iniziato con loro, poi questi qui hanno visto che era un bravo grafico, lui ha fatto a titolo gratuito tutti i cataloghi per andare in fiera a Francoforte intanto, e poi dopo con quelli è riuscito anche ad andare in fiera a Düsseldorf e gli ha chiesto ma allora intanto faccio per tale, posso mettere dentro anche i miei pezzi? Cioè è così tenace, pratico, sveglio. Esatto. E siamo praticamente questi tre aggettivi qua. Io faccio custodia a casa di Pero, è De Pero, sì. Tenace, pratico, esatto. Sveglio. E autopromozione, aggiungo, lui la chiamava autoreclami. Sì. Sì. E poi comunque tenace, con idee chiare, ma versatile. Cioè se c'è un momento in cui tu devi cambiare passo, tu devi cambiare passo. Perché se altrimenti ti scontri e non ce la fai. Ma cioè, ti fai nemici? Ti fai nemici. Invece questo ragazzo doveva avere una delicatezza, era spaziale. Però vedevi che si sapeva muovere, quando sapeva tacere, quando doveva tacere, quando c'era un... Cioè, dosare tutto al modo giusto e ce l'ha fatta. Adesso non so quanto che terrà, comunque lavora con questa azienda e fa dei pezzi strepitosi. Sì. E qua eravamo partiti per darvi l'idea, poi eravamo partiti in 12, 14, quanti eravamo? 12 o 14, che avevano nel percorso dei 12-14 quelli che volevano, avevano un minimo di idea, un minimo di sostenibilità, erano 5, qua ce ne sono 6, io dico 5 perché una di queste era, lasciamo stare, no? Qual? La Barbara. Ah, che bene. E che hanno avviato, che hanno aperto partita IVA, sono stati. Il percorso è servito a questo, a chiarire anche le idee, la sostenibilità. Nel percorso avevamo inserito sia delle cose più legate al business plan, con le banche, li abbiamo accompagnati in banca, li abbiamo fatti parlare con i consorzi fidi, e li abbiamo con il commercialista, con il fiscalista, con quello che si occupa della parte, che tipo di azienda, associazione aprire e così via. E poi c'erano anche delle attività, quello è il pitch day, un giorno abbiamo fatto in Camera di Commercio e loro si sono preparati anche la presentazione con i docenti che li hanno seguiti, quindi hanno, come dire, sono stati supportati su varie cose. Dico, uno ovviamente non può essere un tuttologo, ad esempio sulla parte fiscale e amministrativa, ve lo dico non solo perché provengo da un'associazione, ma credo che poi uno... Se ha intenzione di avviare un'impresa, gli conviene mettersi in contatto con le associazioni di imprese, perché lì dentro ha risposte a 360 gradi. Uno non può essere un fiscalista, non può essere un... Però questo problema l'avete riscontrato in tanti casi. Sì, sì, la parte amministrativa è quella più critica. È cioè, quella più critica. Di non riuscire a starci dentro nella burocrazia. Nella burocrazia, ma anche nella stessa definizione del progetto di impresa, non come idea, del progetto di impresa come sostenibile. Una cosa positiva che hanno le associazioni, insomma, che comunque una persona magari da nulla inizia ad avere a che fare con queste cose, perciò ci dovete spazzare. Perché il mondo è creato anche, è sostenuto anche da tutto un apparato burocratico fiscale che se uno più tardi uno ci mette dentro le mani. Che vuol dire capacità di linguaggio con quella burocrazia, capacità di programmazione. Questa necessità di avere i piedi per terra, insomma, è questo che ti porta ad avere anche a capire se un'idea, per quanto tutti noi ovviamente tutti abbiamo buone idee e tutte le nostre idee sono meritevoli di qualcosa, insomma, però secondo me è proprio anche questa qualità che su cui vi focalizzavate voi, di essere comunque credibili, essere spendibili, essere reali, insomma, essere pratici. Sì, ecco, noi non entriamo mai nella parte più tecnica, cioè adesso ad esempio stiamo facendo un progetto, poi lo vediamo con gli artisti, non gli insegniamo a dipingere ovviamente, no? Perché quello non è compito. Il percorso di istruzione li ha portati e magari a delle eccellenze straordinarie, quello non è il nostro compito. È chiaro che però alle volte rileviamo che ci sono degli scompensi anche su questo, ad esempio qua era stato presentato un progetto sulle camicette da una persona che non aveva mai, cioè non aveva neanche studiato modellista. Era l'AIS, era tutto un fraintendimento di immagini fatte attraverso le camicie, l'AIS come bugie. E lei aveva, secondo me era molto sveglia, peccato che non aveva competenza tecnica, sempre fa tutt'altro, altrimenti andava avanti. Sì, è quello, quindi poi gli aiutiamo, gli aiutiamo, là viene evidente. Ci potete raccontare un po' magari queste idee che sono riuscite magari a arrivare allo step successivo? Il ragazzo in mezzo che vedi è Carmine, questo che è Tolina di terra, faceva design. Poi Barbara, la ragazza a fianco, Ricciolina, un bed and breakfast con tot ettari, con spa, fallita subito, adesso gestisce il bed and breakfast di qualcun altro. C'è un'idea da 400.000 euro, ovviamente poi senza competenze, insomma, è difficile da realizzare. La ragazza che vedi più grande è questa che voleva fare le camicette con queste immagini digitali quasi alterato, virato, confuse sul tema della bugia, quindi quasi un racconto inventato su immagini, diciamo, riprese da copyright che appunto non era riuscita a gestire. Le due ragazze sotto hanno lavorato assieme e lavoravano, adesso faccio fatica a spiegarti perché quello lì era un progetto molto tecnico, erano due archeologhe, lavoravano sul restauro. Un bel progetto questo. Ma com'è che funzionava? Perché loro lavoravano su una tipologia particolare di restauro e lavoravano a Venezia, su delle tecniche legate al vetro di Murano e altre tecniche legate al restauro della pietra in disuso, quindi volevano recuperare queste cose e contemporaneamente fare formazione, proprio perché appunto gli artigiani su queste materie erano scomparsi, su queste materie. Però non sono andate avanti. Super di nicchia, insomma. Esatto, molto di nicchia. Poi una ragazza era convinta, quella con gli occhiali, l'altra un po' meno, penso che abbia cambiato strada. E il ragazzo invece sotto, lui aveva iniziato con un'idea, poi era appassionato di guide turistiche, lui faceva anche sport, così ha realizzato una startup che si chiama Fresco Uganeo. E organizza per la valorizzazione dei colli uganei, che infatti sono, non si può passare dal trattino ai colli uganei perché vi sparate, perché non ci sono sentieri. Noi ci siamo stati, dove siamo? Noi ci siamo stati, i colli uganei. Sì, ci siamo stati. Sembrano andare nelle colline disperse. No, beh, sono usciti cinghiali dappertutto. Sì. E allora c'è acqua per darne un po' di uganei. Insomma, per risistemare un po' la cosa e studiare degli itinerari per portare un po' i turisti che gli esnobano. Completamente, comunque sta lavorando bene, ho visto già le sue sta. Ha aperto un negozio adesso di prodotti tipici collegato a questa attività di guida. A Monte Grotto. Ha aperto anche il negozio a Monte Grotto. C'è una piccola formula secondo voi da riconoscere già dall'inizio se funziona? È un percorso. cioè capisci, secondo me la prima cosa è quella che dici te, la praticità della proposta la capisci. Questa è un'idea semplice, faccio l'accompagnatore, però lo leggo a temi particolari, lo leggo al prodotto, utilizzo un bacino che è quello termale, che comunque è un bacino che fa 4 milioni di presenze, e è chiaro che tu poi nel fare l'accordo con alcuni alberghi, da notte, nelle terme vuol dire fare l'accordo con gli uscieri, e hai clienti, insomma, per cui qualcosa casca. Comunque lì, in quel contesto lì, un sistema già chiuso, devi solo entrare, esatto, e capire le regole. Esatto. E poi devi capire se però mi piaceva quello che diceva lei, del fatto uno di resistere in base alla tua idea, ma soprattutto di essere molto pratico e di saper dialogare nel momento della difficoltà. Quello per forza. Sì. E di non essere rigido, no? Mai. Ma di saper dialogare con l'esigenza del cliente. Comunque la tua idea non andrà mai avanti dritto, quindi devi sempre essere disposto, che non è un compromesso ma è mediazione, è fondamentale in tutto. Io uso una parola più brutale, è vendita. Perché che sia un evento, no, bisogna venderla la propria idea, cioè c'è poco da fare, bisogna essere commerciali. Lo dico brutalmente, uno dei motivi, oltre a Federica, del fatto che vi ho chiamato qua, del fatto questo di estrema praticità dei venti, di fare le cose, che è vero, cioè uno degli hashtag principali, grandi, è la vendita. E la vendita vuol dire tante cose, vuol dire sapersi adattare l'esigenza del cliente e capire. Io mi ricordo, ho fatto un corso di gestione di impresa 20 anni fa. Vendere vuol dire prima di tutto soddisfare il cliente. Non è vendere, è soddisfare il cliente, perché poi vendi. Ah, sì. È una regola molto, molto importante. E anche saper comunicare l'idea, no? È un progetto, credo sia fondamentale. Se tu hai l'equatività e la potenzialità, però non riesci ad esprimere, come fai a vendere? Esatto. Questo crea una grandissima frustrazione. E quindi io chiedo in questo caso degli strumenti pratici. Come si fa a comunicare un'idea? Come si fa comunque a comunicare un format che funziona per potersi adattare? Ah, qua c'è la cavalla di parati. Sì, qui cioè, è una preparazione, cioè, c'è una preparazione, c'è un percorso, cioè, comunque, ripeto, anche le attività di formazione che facciamo noi le facciamo proprio per questo. Poi, chiaro, una volta ad esempio si andava in banca, si poteva commercializzare, adesso in banca magari la parte più ideale di progetto funziona meno, funziona di più magari il genitore che ha, no, la capacità di garanzia da questo punto di vista, però tutto il resto pensate se dovete far sposare un vostro progetto all'amministrazione, no? O farla sostenere dalla provincia. Consigli ci dai su questo aspetto qua? Il consiglio che do io è quello di vedere se c'è la possibilità comunque di attivare dei percorsi di formazione. Preso spunto dal titolo di questa rassegna, no, informazione, cioè comunque il primo passo, date le competenze tecniche, no? Per cui se uno ha un'idea, sviluppa un'idea, deve avere la competenza tecnica per poterla portare avanti, o deve avere qualcuno, un socio, qualcuno che con lui gli permette di portare avanti quella competenza. Che secondo me è difficile che il creativo abbia in sé anche la competenza comunicativa, sì, no? È molto rara questa cosa, quasi impossibile. E quindi forse è trovare un socio, un collega. Però lì è molto difficile invece condividere appieno il progetto, no? Questo che sia lì la grandissima difficoltà. Però io ho visto, cioè, perché poi sai, dici competenza nella comunicazione, quindi appropriatezza, quindi efficacia, ok. Però io ho visto creativi con una passione talmente grande, talmente grande, talmente grande, che anche la comunicazione diventava efficace, anche se balbuziente. Nel senso, quando ci... Beh, non sempre. Sì, sì. Però se ci credi veramente tanto, ok, sei tenace, prima o poi la fai capire, poi dipende anche con chi ti trovi. Federica, però... tu hai dovuto selezionare tanti progetti durante la notte del Roveretto. Qual è che era, ti diceva, quello che buca o quello che no, per esempio? Devo dire persone? ne hai selezionati i progetti, hai deciso qual è che era quello per, quella, per quel momento lì. Beh, non selezionavo mai, adesso, cioè si seleziona sempre. Ho capito, però un'idea te la sei fatta. E qual era secondo te, per esempio, in questo caso qua, l'artista che si pone e chiede al Comune di Rovereto di partecipare alla Notte Verde in quanto artista? Allora, innanzitutto i progetti semplicemente autoreferenziali, cioè nel senso... Tu volevi un progetto che dialoga con il festival? Ovvio, che dialoga con le persone, che dialoga a livello... Tra generazioni, o fa un dialogo con la città, o dialoga a livello urbano, o dialoga con le altre associazioni, okay. Però un progetto fine a se stesso, autoreferenziale, non ti dà un valore aggiunto in una manifestazione che deve essere fatta in rete. Certo. Il grosso problema infatti era stato, e era sempre, che comunque non c'era dialogo tra quello che per dire porta avanti anche lui, che comunque è tutto un dialogo tra commercianti e la rete, che praticamente fa vivere la città e l'istituzione, quindi lì il grande problema poi era tra Rovereto in centro, tra virgolette, il comune, perché faceva la manifestazione, chiudevano i negozi, prima il negozio chiudeva l'istituzione. Quindi capire la complessità. Quindi il dialogo mancava soprattutto a livello più alto, perché tra istituzioni e comunque con giochi di potere non si parlavano, secondo me. Cioè è difficilissimo. Perché poi comunque è una comunicazione diversa, perché quando parli, io vedo adesso, per dire, lavoro in alcune città con l'assessorato al commercio, là lavoravo con l'assessorato alla cultura, i termini sono completamente diversi ed è una follia, perché la città è fatta di cultura e commercio, sono sulla stessa strada, ma parlano due lingue completamente diverse. Ero con un assessore al commercio, è arrivato un gruppo teatrale, diceva guarda lo spettacolo è questo, e gli ha detto a me del contenuto del tuo spettacolo me ne frega niente, quante persone porti, quanta gente entra nei negozi. Ecco, questo qui è il grande, grandissimo problema degli osteoperi sulle città, che sono compartimenti stagni, cioè non è che riesci a parlare con... se chiedi di incontrare l'assessore una volta... Io porto l'esempio, se continuo su De Pero, che il 27 De Pero lo invitano alla Biennale di Venezia e lui porta un quadro pubblicitario dedicato a Campari, un genio, perché adesso l'ha fatto Catenano 5 anni fa, Colossetti, che ha affittato lo spazio dedicato a Catenano, ha affittato un'azienda, esatto, De Pero l'ha fatto nel 27, esatto. E ha portato un quadro pubblicitario, non cartello, esatto. Lo dice, e sfrutta il suo sponsor e lo porta. Un genio. Mi piacerebbe continuare su questo discorso qua, questa capacità, sì. Un festival che fa una call e l'artista o l'associazione che si propone. Quali sono le prerogative? No? Abbiamo visto che sono l'estrema praticità, la risposta alle domande del festival, che lo fanno, e poi questa cosa che avete molto di più voi, questa risposta molto più pratica alle esigenze commerciali. Sì, ecco che cioè, è un insieme di cose. Credo che lei è una cosa che mi riprovera sempre, perché ripeto, io vengo dal mondo del commercio, ragioniere, eccetera, sarei più come l'assessore dei nostri numeri. In realtà poi uno, cioè come dire, un cambiamento lo deve portare, non può cedere i numeri e basta. Ci sono, come dire, ci sono dei numeri che sono quelli del conto corrente, che a quelli purtroppo bisogna cedere, perché non potete sempre lavorare a gratis. Perché prima o poi a lavorare gratis ci si stanca. Quindi a quei numeri, con quei numeri prima o dopo si fa conto. Con quelli più, diciamo così, quante persone mi porti, eccetera, ok. Però fare cultura vuol dire portare anche un cambiamento, per cui... Un contenuto, comunque qualcosa che ti resta. Ci si smussa, ma non si cede, se può, cioè come diceva lei, si è tenaci su... Questo fa molto il lavoro dell'associazione in cui c'è dentro anche Walter, qualche mese fa, che hanno fatto una festa e hanno fatto un panino a, non lo chiamo più a chilometri zero, ma lo chiamo a chilometri 10, dove ha portato i prodotti di un territorio dentro un panino. Quindi dalla carne al formaggio a delle spezie, tutte fatte all'interno di, di un circuito. Bello, sì. Sì, su queste cose si gioca sull'idea del panino del McDonald's, però lo sei. Un panino di Zion. Un panino di Zion. Panino di Zion. Ma è vero, sì, ma sai qua c'è il problema che noi in Italia non lo conosciamo. Non sappiamo chi è Zaia. Esatto. Sta bucando i modi. No, no, ma proprio chi è Zaia? Interessante questo discorso comunque sulla anche la gratuità del lavoro, oppure giustamente come del lavoro artistico è sempre un po' borderline, anche l'esempio che avete fatto del ragazzo che è molto bravo con queste ceramiche, con questi insomma lavori. Lui ha avuto l'opportunità grazie al suo impegno comunque lui, anche non retribuito. Non cedeva mai a gratuità, però cedeva allo scambio merci. Okay. Ok, io te ne do uno, tu mi presti la fresa, tu mi dai lo spazio, cioè svendersi no, anche perché lui era fermamente convinto della qualità del suo prodotto e aveva ragione. Con l'azienda collabora, quindi. Ma aziende che lavorano, cioè la Lago, cioè aziende Maison Object, cioè aziende importanti, è riuscito a collaborare. E però lui andava là, perché guardate, non riusciva a spiaccicare parole, io un ragazzo così timido non l'ho mai visto, però niente, andava là, spiegava il suo prodotto, si era fatto tutta la sua cucina. Aveva ben chiaro un'idea. Lui voleva arrivare lì. E quindi pian pianino è riuscito a trovare due o tre spazi, poi dopo lì lo conoscevano, gli facevano fare una cosa, un'altra, e si è fatto conoscere in silenzio quasi, perché comunque non era uno che ostentava, però ce l'ha fatta. Ecco questo, vabbè, questo è un percorso anche forse un po' troppo lungo, perché poi anche noi stiamo imparando. Perché, ripeto, fino a questi progetti che sono iniziati 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, insomma, il nostro ente si è prevalentemente occupato sia anche di avvio di impresa, ma ripeto, il negozio, il ristorante, il bar. Sai, corsi no, bar, corsi... Come anche abbiamo sostenuto anche ragazzi, insomma, sì, queste cose qui. Però... occupandoci dall'altro lato anche di progetti che riguardano la città, che non c'entrano con la formazione, alla fine, come dire, anche poi la sollecitazione di Federica su questo, alla fine il tema, no, di questa intersezione città, rivitalizzazione, visione stessa della città, riqualificazione, il commercio, eccetera, le funzioni da riportare all'interno della città, il tema della cultura... è ritornato al centrico, pensate, no, diciamo che e il cinema Italia, come sparire il cinema dei centri sì, città. Sì, poi sono passati anche a un livello di città meno hardware e più software con Carlo Ratti, anche amato, cioè cercare anche comunque di cambiare un po', anche se è esasperato, però la visione della allora città. Adesso qua è tra parentesi N, non sarebbe N così, sarebbe X alla N, perché l'idea anche in questo progetto era di contaminare anche lì, infatti Carmine lavora una macchina a controllo numerico un po' particolare, c'era anche 3D modeling nei contenuti, c'era la volontà anche in, come dire, in modalità tradizionali di sì, avviare impresa, di innescare tutto il tema, chiamiamolo in modo come lo chiamano, delle nuove tecnologie, diciamo della società dell'informazione anche spinta in qualche modo, no? Mi diceva, poi vabbè, voi la conoscete meglio di noi, che siamo ultra quarantenni, che non siamo nati, non siamo, in realtà non è il XLN, ma il Diamond Generation, no? E magari per molti non è così naturale, no? Ma detto che avete fatto la comunicazione solo con i social, una cosa ad esempio io che lavoro con i commercianti, fammi capire questa cosa qua. Un progetto che tra l'altro abbiamo seguito assieme in una cittadina medio piccola della cintura di Treviso paese, abbiamo fatto una sera una riunione in cui abbiamo detto dobbiamo attivare il social, raccogliere le mail, c'era il presidente dell'associazione di commercianti di questo paese che ha detto che cos'è sta cosa, io non ho bisogno di questo tipo di informazione, non ho neanche la mail. Stasera siamo qua non per comunicazione stampata, è stato presentato il volantino stasera, quindi le persone che sono qua sono attraverso social. Sì, adesso anche noi stiamo lottando pur non essendo nativi digitali anche per la nostra comunicazione. Basta fidarsi ai giovani e loro smanettano da Dio. Dopo un corso sì, nostro sono molto rigorosi sulla scelta delle cose. C'è anche questo aspetto che il fare rete reale, sì. Ma, cioè il virtuale è reale. È reale, nel senso sì. Che se ci credi veramente fai rete anche sul virtuale. Esatto. Altrimenti sono soldi buttati via a fare il post sponsorizzato, insomma, il famoso post sponsorizzato. Quindi sì, è così. C'è molta attenzione. No, comunque ci sono dei rapporti che sono rapporti reali, cioè se dici una cosa la devi rispettare, se programmi un incontro lo devi rispettare. Diciamo che è un rapporto di rispetto prima di tutto reale. Che poi si tramuta. E poi vi faccio se c'è la Marco, ma che un altro problema che se ne parlerà più avanti. No, esatto, che è un problema della connessione reale. Io volevo far vedere. Marco, a me non so come siamo di tempi, se ci parli un attimo, credo che ti interessi molto, la possibilità attraverso sinergie e attraverso le attività che stiamo facendo da 5 anni, che vuol dire principalmente il festival Sinergie, ma anche uno scambio di attrezzature, di pratiche culturali e sociali che sono avvenute negli ultimi 5 anni attraverso Sinergie, faccio molto veloce, la possibilità di accedere a fondi europei per un progetto come il nostro. Allora, no? Se vi interessa... Questo è il bagno che ha fatto la paperina. Cioè, ditemi se sto andando al dunque o no. Sulla questione. Allora, o se avete altre domande? Sulla programmazione, Unione Europea, ci sono i fondi strutturali, FSF, il Fondo per l'Agricoltura, attenzione anche al Fondo per l'Agricoltura che non è banale, quello caccia pesca non mi interessa, perché soprattutto pesca, per cui questi tre fondi di solito sono strutturati in due modi. Una parte viene data di competenza agli stati e alle regioni, in questo caso le province autonome, che fanno i programmi operativi regionali. Per cui i classici corsi del fondo sociale nascono all'interno della programmazione regionale o provinciale del fondo sociale europeo. Cioè l'Unione, praticamente anche le regioni partecipano a un bando, presentano un programma, dicono: io da qui a 7 anni voglio arrivare ad avere la diminuzione della disoccupazione di X%, l'aumento delle imprese di Y% e così via, cioè danno degli obiettivi e dicono come vogliono fare, costruiscono questo programma operativo. Dal programma operativo, una volta che l'Unione Europea l'ha approvato, perché deve essere approvato, non è che scrivono quello che vogliono, mandano sul programma, gli mandano le osservazioni, torna giù, su e giù e così via. Partono i bandi, i classici bandi regionali. Questi progetti che vi abbiamo illustrato sono progetti finanziati con strumenti regionali. Alcuni, come vi dicevo prima, che hanno contributi a fondo perduto, hanno messo dentro FSE e FESR. Il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è quello che interviene sugli investimenti di solito, che possono essere legati a investimenti in imprese o investimenti per la pubblica amministrazione, piste ciclabili. Quasi sicuramente il 90% sono state fatte con fondi. Sono strutturali, quindi. Esatto, sono stati fatti con fondi. A noi interessa la parte culturale, come dire, di progettazione sì, culturale. Ci possono essere, cioè voglio dire, nello strutturale bisogna capire che cosa hanno scritto qui, perché magari non fai la programmazione culturale, ma magari ti compri gli strumenti per farla. Ok. Ad esempio, tu che hai un lavoro molto particolare, no? Quindi anche con strumentazioni particolari, non lo so, bisognerebbe leggere il programma, magari qui potrebbe essere prevista qualcosa sull'innovazione tecnologica legata al suono e potrebbero esserci dei fondi magari per le imprese che sono... Per quanto riguarda un'attività culturale diffusa come la nostra, arrivo al terzo punto, no, FSE, quindi FSE è quello che dicevamo prima. Sto diventando più veneto di te. È formazione, quindi un ente partner, si lavora sul concetto di formazione, però poi dalla formazione nascono anche le altre cose, perché la formazione può essere o d'aula oppure può essere anche molto di gruppo di lavoro. Il terzo punto, il fondo per l'agricoltura, voi dite... Cazzo, c'entra il fondo per l'agricoltura con la cultura. C'è un programma all'interno del fondo dell'agricoltura che utilizza almeno il 5% delle risorse destinate alla provincia o alla regione, che si chiama LEADER. Avete mai sentito? Ovviamente no. Conoscete il GAL? I GAL, i gruppi di azione locale. I gruppi di azione locale fanno programmazione partecipata a livello locale. Ma sono in tutta Italia o sono io l'ho visto sono a sud. In tutta Italia io l'ho visto al sud sono al sud no no c'è anche qua no non esiste non esiste sì, il Veneto esiste il GAL madonna e anche qua c'è mi sa che c'è proprio un GAL Vallagarina ti ricordi GAL Trento adesso sta partendo la nuova è programmazione dal basso quindi è tendenzialmente legato all'agricoltura però un programma di sviluppo rurale dentro questo programma di sviluppo rurale. Noi ad esempio l'anno scorso, con la vecchia programmazione, abbiamo fatto tutta l'attività di promozione del Parco Letterario Euganeo. Nei Colli Euganei è stato riconosciuto a livello nazionale, adesso abbiamo il Parco Letterario, perché come, oltre al Petrarca... Come singolo progetto? Con un progetto di 50-60 mila euro. Singolo collegato a un progetto europeo? Collegato alla programmazione del LEADER. E chi è il LEADER? Il LEADER è un fondo, cioè il LEADER è un programma legato al fondo dell'agricoltura. Il 10% di questo fondo dell'agricoltura. Ma il capofila, scusa, è per chiarire sia a me che a loro, il capofila è la regione Veneto o qualcuno? No, no, no, anche qua. No, il capofila, allora c'è la programmazione, c'è il fondo europeo per l'agricoltura. Dai soldi alle regioni, alle province e così via, che fanno i programmi operativi regionali e provinciali. In quello dell'agricoltura, almeno il 5% delle risorse del programma operativo regionale o provinciale è destinato al LEADER. Da chi è gestito? Da chi sono gestiti? Rete rurale, sì, vediamo, ce n'è uno in Val di Sole, due sono. Val di Sole, ecco. Da chi sono gestiti? Da chi sono gestiti questo 5%? È gestito dai gruppi di azione locale che hanno come scopo, prendono praticamente un pezzo di questo 5%, ad esempio. Quello dove noi lavoriamo a Padova, nella prossima programmazione avrà una gestione di 7 milioni di euro di contributo, quindi un totale di 14 milioni di euro di progetti di spesa. Come saranno gestiti? Lo stiamo decidendo adesso, però che so, il 60% andrà a finanziare le botte in rovere, adesso fare una cavolata, delle cantine. A sviluppo rurale. Sviluppo rurale. Vuol dire sia culturale che pratico. Tutto, turismo, eccetera. Cioè, in questo momento probabilmente stanno decidendo quali sono le. Ci sono sette assi di intervento. Uno dei sette assi è anche la cultura. Un altro il turismo, per cui se non entra l'asse la cultura ci entri dentro il turismo. Per cui il GAL stabilirà un sottoprogramma. Si chiama programma operativo locale, una cosa del genere. Dentro lì i soggetti che vi partecipano, di solito chi c'è all'interno di questi soggetti? È un misto pubblico-privato, per cui ci sono le associazioni agricoltori che di solito sono quelle che pesano di più per un fondo dell'agricoltura, ci sono le associazioni dei commercianti come l'ASCO, la Confesercenti, gli artigiani, ci sono i comuni magari della zona, la Camera di Commercio e così via, che fanno questo tavolo partecipato in cui decidono questa programmazione. Un pezzo sicuramente va alle attività di informazione, quindi alle attività di promozione. Come vi dicevo, in quello precedente, ad esempio, noi a PAL, quello che hai fatto tu è stato finanziato dal GAL. Noi, no, oltretutto noi, sì. Noi, oltretutto in Irpinia, siamo finiti io e Sara in un GAL sotto la voce paesaggio sonoro, promozione delle attività culturali del paese. Quello che hai fatto con Sara e ci siamo fatti una settimana in Irpinia attraverso il GAL. In Irpinia era GAL Partenio e quindi la promozione dello sviluppo rurale, esatto, della zona è alla base del progetto interferente. In questo caso qua tu sai in provincia chi dovrebbe muovere queste cose qua. Bisogna andare al GAR, bisogna capire. Ma se, non, se esiste solo, come dice lei, il GAR Val di Sole, qui non... No, ci sono dei parametri che sono legati alla densità. Cioè, Walter, devono essere aree rurali. Walter, Walter, tu non hai mai sentito parlare di questa cosa qua? Ce n'è un altro. Però adesso hanno cambiato, bisogna... Walter, Leandro, in Irpinia, ci ha costruito un festival su questo valle. Dov'è che sono? Hai visto il Val di Sole adesso? Questo, bisogna vedere il nuovo GAR, perché sono cambiate. Ad esempio a Padova ce n'erano due, adesso ne rimarrà uno solo. Che raggruppa tutti e due, però con meno comuni. Ma adesso perché la Val di Sole finisce con quest'anno. Bisogna capire i parametri. Quindi quello è l'ente gestore. L'ente che fa i bandi, che gestisce adesso, gestisce però dei fondi dedicati all'agricoltura spezzettati, diciamo. Vi faccio un esempio. Basilicata Costo Posto, avete presente il film? È stato finanziato interamente dal CAI. Cioè dipende, e questo è il momento in cui si sta decidendo la programmazione. Ad esempio, noi adesso stiamo litigando, perché ovviamente devi giungere una sintesi. Allora, hai i comuni che vogliono rifarsi le piazze, gli agricoltori. Veneto, Trentino. No, ci sono anche i progetti di cooperazione nei GAR. In bicicletta, però. Bicicletta, il 10% di quel famoso 5% è destinato ai progetti di cooperazione. Cosa, ci, cosa ci consigli come sinergie? Di attivare, che c'è già una rete di consapevolezza locale molto ampia. Vi ho parlato del panino per farvi capire. Il panino che, è una cosa classica da casa. No, per farvi capire che la consapevolezza è alta. Sì, è molta... No, il mio consiglio è, essendo fondo dell'agricoltura, andate a parlare o con la Coldiretti o con la CIA e sentite che cosa stanno facendo. Chi è Coldiretti? No, è a Coldiretti, adesso sono CIA. Sì, vai a parlare. Sei andato alla posizione, della verità. Eh sì. No, comunque, l'ultimo che abbiamo fatto in zona l'abbiamo fatto una decina di anni fa sul Val dell'Eno, un progetto lì, che era rotta, era prevalentemente agricolo. Adesso il Val di Sole dovrebbe finire, non so il prossimo modello. Walter, dovete, allora, i direttori delle associazioni agricole lo sanno sicuramente. Sì, vabbè, sì. Quindi basta parlare con loro per capire dove si stanno indirizzando, perché magari se loro dicono ci interessa fare della promozione, gli dite guarda, tenete conto che c'è una rete, e qualcosa magari può scoprire anche a loro. Perché la mia riflessione è che in Trentino la vera innovazione culturale sta avvenendo in un'area che potenzialmente è degradata, cioè che è un'area periferica tra le due città, tra Trento e Rovereto, e incredibilmente stanno nascendo uno dietro l'altro dei progetti innovativi proprio in un'area che in teoria dovrebbe essere quella più degradata, cioè l'area di periferia, che è la prima casa che viene comprata dal dipendente provinciale per uscire dalla città e per non abitarla, no? Questo è tipico Europa per i cittadini. Eppure tra Trento e Rovereto, tra Villa La Gallina, Besenello, Cagliano, Volano, tante attività, stanno nascendo un sacco di attività culturali che sono, in un certo senso, per il mio punto di vista, capofila in Trentino sull'innovazione culturale. Allora, per dirvi, adesso c'è un altro bando che io ho visto in ritardo, perché scade il 31 novembre, che si chiama, ormai fatto venire in mente questa cosa, no? Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione al piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Scade il 30 novembre. Potenzialmente sarebbe questa. Questo non è un progetto europeo, è un bando del ministero. I bandi del ministero sono pericolosi, perché vi dicono che ci sono i soldi, magari dopo due anni vi dicono che non ci sono più. Mi è capitato che avevamo ricevuto 170.000 euro per fare un asilo nella zona dei servizi industriali dove siamo. Avevamo l'accordo con l'amministrazione vecchia di dove andarmi a inserire in una villa dove dovevano spostare una cooperativa che curava dei tossici, cambiata l'amministrazione, hanno deciso di lasciare i tossici lì, abbiamo girato mezza zona industriale di Padova per trovare un posto, non l'abbiamo trovato. Signore, ti ringrazio, non l'abbiamo trovato, perché dopo 6-7 mesi è arrivata la lettera del ministero che non c'erano più soldi, per cui non potevano darci il contributo. Cosa? Quindi, cosa, cosa ci consigli, Marco, nella nostra realtà? Allora, l'altro elemento è quello che diceva Federica, che c'è un bando per la cultura e anche per i festival culturali, che è il bando cultura. Bando cultura però finanzia fino al 60%. Soprattutto attivando delle reti extranazionali. Esatto. Esatto, ma questo può essere di stimolo. Il problema è il 60%. Ma per Europa, per i cittadini in totale. Ma Europa per i cittadini, cioè se voi siete associazioni culturali, presentate Europa per i cittadini, vi dicono andate a fare cultura. Non però Alberto, quello per l'organizzazione della società civile, memoria storica. Società civile. Quindi secondo te. Quindi è molto orientato. Secondo te l'Italia sarebbe la situazione migliore? L'Italia è una situazione locale da provare a attivare. Si attivano tutte le strade. Cultura è un'altra situazione, però ripeto, con il 60 minimo il 40% di cofinanziamento, quindi sono progetti da 200.000 euro, 40%. Ah, siamo al 40%? Minimo. Pesante. Minimo. Danno punti se arrivi. Quindi un finanziamento leggero, se vogliamo. Bisogna avere... un finanziamento dalla provincia. Agganciare magari un qualcosa che già esiste, che ha già... la provincia che ci mette i soldi e integrarlo con qualcosa di nostro. Scusa, questi, tutti questi bandi, queste informazioni, tanto così per fare un discorso, come allora, i controlli, dove li vedi? C'è l'ufficio Europa della provincia di Trento che ci dovrebbe dare tutte queste informazioni. È che è anni che lo continuano a pubblicizzare, ma nessuno ci va. Come provincia di Trento so per certo che abbiamo perso milioni e milioni di euro di finanziamenti europei perché nessuno si è presentato. Guardate, il comune di Rovereto fa presentarne tre, uno si chiamava... Ma è anni, ancora all'epoca della Cogo, cioè 6-7 anni fa, la Cogo si lamentava sui giornali che nessuno ne presentava progetti europei. Allora, potrebbe essere interessante per sinergia attivare una cosa del genere. Vi do questo sito per quello del nostro Eurosportello. Non tutti i siti sono abbastanza aggiornati, ma non sono mai completi, per cui conviene sentire la provincia, conviene vederne un altro. Questo nostro fa un'informazione abbastanza buona sia su quelli europei che su quelli nazionali, su quelli regionali no, perché sono toscani loro. Si chiama ueonline.it. Sì. Poi c'è il sito, c'è il sito della provincia che esatto. Non so se è progetti europei. Esatto. Che sono su che non fanno niente, guarda, ve lo dico, sono su che non fanno niente. Poi un altro. Tra l'altro in provincia Trento, io ce l'ho stata, avevo iniziato col comune di Rovereto, poi sono andata via un progetto. Tra l'altro praticamente te lo rettificavano e te lo riposizionavano in base ai colloqui che facevano loro quando andavano a Bruxelles. Praticamente tu davi l'impianto, loro lo leggevano, lo presentavano a Bruxelles, tornavano e ti dicevano che rettifiche fare. Ti aiutano anche in questo per capirci, modo, anche nessuno ci va. Per capirci, però... un progetto europeo fatto da privati costa 5-6 mila euro solo di progettazione. Sì. Ci sono delle province che lo fanno... Sara, dove è che sia stato? Ah, a Cesena, in provincia di Cesena c'è l'ufficio che lo fa gratuitamente. Il comune di Mercato Sì, lo fa. Che lo fa gratuitamente. C'è un ufficio del comune, sì. Che lo fa gratuitamente. Ma anche qua? No, qua ti danno degli indirizzi. Ah sì? Io quello che sapevo io ultimamente è che davano degli indirizzi, ma non facevano il progetto. L'altro giorno abbiamo scoperto a Cesena che c'è, hanno un consorzio di comuni, hanno assunto un dipendente per fare il progetto gratuitamente per l'associazione, che non è niente perché un dipendente costa 25.000 euro e rischi che te ne arrivano 200.000. Che noi andiamo a risultato, cioè non è quello. Ma voi siete, voi siete un'azienda privata. Sì. Lavoriamo a risultato, ma perché poi non ci interessano i 100.000 euro della progettazione. Sì, ci interessa lavorare per il progetto. le società di consulenza invece. Beh, ma i dipendenti, una società dipendenti di consulenza dovete pagarli, insomma, i dipendenti dovete pagarli. Sì, ma lavoriamo sui progetti, cioè no, a noi interessa farli i progetti. Cioè praticamente okay. I dipendenti fanno parte avanzata della progettazione, cioè parte burocratica e è una punta, insomma. La stesura dei progetti è esterna in gran parte e si lavora a progetto. Il progetto va, viene pagato tot, una percentuale sul progetto, e il progetto non va, viene pagato un minimo che è ore lavoro, ma un minimo, giusto? Cosa ci consigliate? Di lavorare con voi o di andare in provincia? Allora, dipende dal vostro momento. Cioè, se dovete ragionare con i GAL, ad esempio, non serve una grande progettazione, serve più una relazione. Bisogna capire in questo momento cosa stanno facendo, ma rimandi li fanno fra 2 anni, però in questo momento stanno decidendo le linee di intervento. Nelle relazioni purtroppo siete voi che le avete innanzitutto qui sul territorio. Sui bandi qualcosina possiamo fare assieme, perché magari ci sono delle cose che ci interessano, volentieri. E sì, ad esempio, ci sono poi i programmi, vi dicevo prima, fondi strutturali gestiti dalla regione. Una parte dei fondi strutturali sono gestiti direttamente da Bruxelles. Quelli di solito, ad esempio, il fondo sociale serve per finanziare il vecchio Progress, sono dei grossi programmi dove entrano le regioni, queste cose qui, e che ragionano su tutto il mercato del lavoro, su tutte queste cose qui. Cultura, che mi pare si utilizzi il FESR, quindi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, non sono sicuro, è un programma sempre gestito a Bruxelles. Un altro programma, secondo me, che può essere interessante per voi, in questo caso sì, conviene magari confrontarsi con la provincia per capire se c'è lo spazio, è Erasmus. Perché c'è l'Erasmus, c'è quello per la formazione, c'è anche quello per, mi pare, per le politiche giovanili, per le reti legate alle politiche giovanili, queste cose qua, è sempre vicino al tema della formazione e dell'istruzione, però tocca abbastanza bene anche la cultura. Bravo. Tant'è che cultura, in Unione Europea, se andate a vedere cultura, gioventù, istruzione e formazione, sono insieme. E poi il FESR, sempre il famoso Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sostiene i progetti di cooperazione, che possono essere cooperazione transnazionale o transfrontaliera. E questi sono i programmi che sono gestiti a livello, tra virgolette, locale, cioè a livello di area, e che sono di solito progetti di confine o di area. Ad esempio, qui c'è, di sicuro, c'è il programma Italia-Austria. In Veneto c'è la provincia di Belluno e mi pare quella di Vicenza, che sono dentro il programma Italia-Austria. Dentro questi programmi di solito ci sono spazi anche per la cultura. Italia-Austria bisognerebbe già avere gli austriaci, perché gli austriaci sono un po' stronzi, perché mentre noi italiani abbiamo tante idee, presentiamo tanti progetti, loro sono meno di noi, perché comunque la fetta di Austria con la quale fare il programma ha meno abitanti, meno associazioni, eccetera, che no, il Trentino, il Veneto, il Friuli, no? Quindi se avete dei partner come associazioni anche di là del Brennero, si può cominciare a ragionare sull'Italia-Austria. Non è ancora uscito il bando, perché è appena stato approvato il programma operativo dell'Italia-Austria. La sede del programma mi pare sia Bolzano, quindi nell'ufficio progetti europei della provincia di Bolzano. È un casino. È Graziano Molone, è presente a Trentino Sprint. Attivare queste, prima di tutto la provincia di Trento, la provincia di Bolzano collabora pochissimo. Vai direttamente in Austria, ho capito, questa è una presenti in Austria, parli con Bologna, vi organizzate, capite se giorni da sviluppare trasfrontaliera, finito. È un momento difficile di rapporti tra. Lo so. Sì, ma lì c'è sempre una equa ripartizione. Quindi bisogna parlare con la provincia di Trento, perché allora cosa succede poi? In queste strutture, no, cioè, non mi ricordo quante regioni dell'Austria ci sono, tipo la Carinzia, il Tirolo, sono due i Tiroli, giusto? C'è quello piccolino e quello più grande. C'è il Tirolo austriaco e il Tirolo italiano. No, italiano, c'è un altro pezzo. Corale. Esatto. Per quello verso la Svizzera. Esatto. E, per cui ogni regione di solito ha un nomina un rappresentante del comitato di valutazione, per cui poi nelle discussioni si tende a ripartire equamente anche le approvazioni. Mi sembra di aver capito in generale che per noi, se fossero interessati, bisognerebbe andare in provincia a chiedere comunque un'attivazione di un GAL locale. Se c'è, se lo stanno facendo, magari lo stanno facendo. Sicuramente lo stanno facendo. Secondo me, io lo sentirei nell'associazione degli agricoltori. Cioè, stanno lavorando sulle aree, come dire, no, nel senso che su un'area, cioè, come dire, un quasi compreso, sì, sì, sono... quello sì, però magari stanno lavorando sulle aree quelle definite povere, no? Un'idea, cioè, io che vedo da, vengo da un ambiente che è al di fuori di un ente accreditato, cioè se io dovessi portare avanti un progetto qua farei così. O andrei a sentire i GAL, sento cosa c'è, ma la vedo non facilissima. Mi insegnerei, andrei a cercare tutti gli enti accreditati. Agli enti accreditati farei un progettino e andrei a dire: voi siete disposti, noi facciamo la stesura, ci mettiamo d'accordo su se arriva il contributo 50-50, cioè, e lo facciamo con voi. Ce la giochiamo. Cioè, appoggiarvi al CESCOT che c'è qua, all'ECIPAR, alla... Camera di commercio. Chi c'è? Cioè portate un progetto e dice: ci sostieni, noi facciamo la stesura del progetto europeo, tu ci dai una mano magari così, anche perché poi vi ritrovate con una rendicontazione da fare, una gestione da fare, devi essere, come si dice, che potrebbe essere una serie di iniziative di sagre e attività culturali, chiamiamole a chilometri 10, e poi, cioè dove tutto viene gestito all'interno, esatto, di un territorio. Poi so che Erasmus, Europa Creativa e un altro, Lab, lo so, ne avevo parlato con Paolo e la Dalia, mi aveva chiesto una mano, li fanno. Quindi eventualmente fare due chiacchiere con loro, sentire se un progetto si può portare avanti insieme. Perché sono comunque progetti tanti complessi che vanno portati avanti anche con una struttura. Loro dentro hanno due o tre persone che fanno progettazione europea che ti sostenga. Se vuoi fartelo proprio da sole e rischiare... Lui non ci crede tanto, neanche io, perché non l'ho passato, però Europa per i cittadini. Si fa con le associazioni culturali, il progetto, il formulario è semplice, è finanziato al 100%, anche se i finanziamenti vanno dai 20 ai 150 mila euro, la rendicontazione è a forfait, quindi tante persone, tanto contributo, e a fotografie, non devi far tanto. Questo è sempre il progetto europeo. Sì, Europa per i cittadini ti vincola, cioè, l'altra volta era sulla memoria, quindi... Adesso sono usciti tutti, ma sì, sì, sì. È il Ministero o Europa? Europa. È proprio il sito Europa per i cittadini. Europa. Tra l'altro, se tu chiedi, chiami sta ragazza che ti do il numero, si chiama Antenna del Cittadino, chiocciola, beniculturali.it mi pare. Se le chiedi, lei è molto disponibile, ha fatto il corso, noi siamo andati a Roma, a Bologna, io non l'ho passato due volte, però se uno scrive bene magari lo passa, lei viene e vi fa il corso su come fare la stesura, magari trovi 200 persone che lo fanno, a Rovereto Trento, lo volevano già fare, adesso non so come sarà, però può anche fare il corso e lì su varie misure, piccole, grandi, e soprattutto legato proprio a partecipazione attiva, volontariato, attività, azioni dal basso. Lo scopo di Europa per i cittadini è quello lì, è il più semplice. È la cittadinanza. Cittadinanza attiva. È la cittadinanza. Quindi tutti i tipi di azione, poi se innesti cose culturali o no, insomma, ma loro non lavorano solo esclusivamente sul culturale. Non so che ti piace, però è molto semplice. E se no si trova un ente accreditato. Se il programma è semplice, ci sono tanti concorrenti. È vero. Però San Nicolò, quel paesino lì, l'ha vinto due volte. Come San Nicolò? Due volte. Ascoltate Marco. se vuole... È logico che però se fate, andate nelle interpretate, fate progetti con tante partner, così è difficile gestire, poi i soldi vanno divisi. Siete in cinque partner. Qua c'è l'assessore. Europa per i cittadini invece può essere sfruttato così. Si prende, esatto, un comune, il comune gemello all'interno dell'Unione, esatto, Europea, o due comuni gemelli, e si fa il lavoro culturale legato al gemellaggio. Beh, proprio la... Sono un po' meno di soldi, perché i gemellaggi hanno un po' meno di soldi, però i gemellaggi non si fanno solo per portare in giro le bande dei paesi, si fanno anche per fare altre cose, per cui un'idea potrebbe essere prendere i comuni amici e lavorare sui gemellaggi. Ce l'ho già, ce l'ho già. Va bene. Domande? Comunque, ci sono altre idee? A me piacciono gli interreg, perché se sono costruiti con le giuste lobby, parlando con la provincia o con l'ente locale che li supporta, danno soddisfazioni sia per le azioni che si possono fare, anche hanno un po' di ciccia. Italia-Austria c'è un altro programma più grosso che più difficile. Ragazzi, io in tutta la Vallagarina è anni che non è nato un progetto europeo da quando è nato, cioè da quando mi occupo io, ma che è 11-12 anni, io non ho mai visto un progetto europeo nato in Vallagarina. Però abbiamo appena chiuso. Siamo andati in Irpinia una volta e loro sono giù che lavorano ancora con i progetti europei. E arrivano belli finanziamenti, cioè si riescono a fare grandi residenze, grandi attrezzature. Perché qui non esiste? Perché qui non c'è una minchia? Ma non è vero, perché non ci sono i grandi progetti come li stanno facendo in Irpinia, per esempio. Loro sono arrivati a teorizzare la rural economy. Oggi è uscita su Che Fare, che è un bel magazine online, e sono riusciti a teorizzare dopo 10 anni la rural economy, cioè a teorizzare veramente i passaggi che devono esserci dell'agricoltura, come dire, chiamiamola chilometro zero, ma fatta con un marketing coi controcoglioni, cioè, e questo tutto attraverso bandi europei. Non è che stiamo parlando del chilometro zero perché comprami perché sono qua. No, comprami perché c'ho dietro una struttura che è 10 anni che ci stiamo lavorando. Da noi stiamo lavorando sul chilometro zero assieme a Coldiretti, perché noi siamo in scontro su una cosa, rappresentiamo i commercianti e non supportiamo i mercatini agricoli all'interno delle città, no, perché fa un po'. No, oltre questo, insomma. Però stiamo lavorando su un'altra cosa. In realtà fuori ci prendiamo a schiaffi su questo tema qua, sotto invece stiamo lavorando sull'accorciamento della filiera, cioè far saltare quel passaggio intermedio per cui l'agricoltore non prende niente perché vende la grande distribuzione e il commerciante ha una concorrenza non sostenibile sempre con la grande distribuzione perché non può comprare allo stesso prezzo, per cui si lavora sul prodotto di qualità, sull'accorciamento di filiera, in modo che sia chi produce che chi rivende abbia un margine più ampio. Non è facile, perché non è un lavoro facile, poi c'è tutto il sistema della logistica, no? Di come io vado a prendere dai singoli produttori e vado a distribuire dai singoli commercianti. Qui ci sono i gas, i gruppi di acquisti solidali. Cioè si sta ragionando, ripeto, noi rappresentiamo i commercianti, per cui se va direttamente al consumatore ovviamente è una cosa che non ci sta bene, anche perché c'è una differenza di trattamento fiscale diversa, per cui, e poi come c'è un esempio che faccio sempre, se io vado dal dentista voglio che sia il dentista che mi fa la carie, non l'odontotecnico, ok? Ognuno deve fare il suo mestiere. Però detto questo, il tema del chilometro zero, il tema della salubrità, anche tutto il casino che è venuto fuori adesso comunicativo sulla carne, no? Credo sia un elemento importante dello sviluppo rurale e sicuramente si ritrova un po' in tutti i programmi che toccano il tema anche un po' del turismo, di queste cose, per cui sicuramente è un elemento a portare avanti. Se vogliamo un po' concludere, il fatto che tu hai posto tante volte durante la serata il fatto che formazione, consapevolezza e poi arrivare ai finanziamenti che ci servono, se vogliamo ovviamente come rete di sinergia andare avanti, insomma. Però mi sembra che hai capito che la formazione è da mettere davanti per avere la consapevolezza di fare le cose. Sì.